in primo piano. Lunedì 20 dicembre, l'apertura del Sole 24 Ore per il lavoro, un 2011 freddo, il mercato resta debole dopo il forte calo del biennio precedente, questa l'apertura dell'edizione del lunedì del Quotidiano Economico, mentre l'altra grande notizia, sulle autostrade apre il Quotidiano Nazionale, trappola A1 vi risarcisco, parla il numero uno di autostrade, ma l'altra grande notizia è la vicenda Gasparri che ha proposto per le manifestazioni degli studenti gli arresti preventivi, come avvenne nel 79. Gasparri vuole arresti preventivi, il Viminale, così si agita la piazza. Questa è l'apertura del Corriere e poi tutti i giornali su questo: arresti preventivi per gli studenti, Repubblica, scontro sull'arresto preventivo per la Stampa, per l'Unità addirittura è la foto di Gasparri con la dicitura, il titolo, odio di Ricino. Mentre il giornale, studenti e Black Bloc sono già armati. D'altronde sarà una bella settimana di Natale con delle manifestazioni molto allegre, attese. C'è ovviamente dell'ironia per chi non l'avesse capito. Allora vogliamo andare a qualche segnalazione. Intanto da pagina 27 di Repubblica. Investigatori, si cambia, basta coi tradimenti, ora scovano gli assenteisti. C'è sempre più lavoro per le agenzie di investigazione, racconta Luisa Grion, ma dei tradimenti della moglie, di cosa facciano i mariti, le fidanzate, i fidanzati, quando se ne vanno in giro da soli, agli italiani interessa sempre meno. Meglio indagare su cosa? L'assenteismo dei dipendenti, la fedeltà dei soci, l'affidabilità dei clienti. Insomma, la crisi economica ha toccato tutti i settori, ma non quello dell'investigazione privata, semplicemente però sono cambiate un po' le tipologie di clienti. C'è molto meno sesso e molto più spionaggio industriale nelle loro indagini. Solo il 30% di chi si rivolge a un'agenzia investigativa lo fa per questioni di famiglia, mentre nella stragrande maggioranza i clienti sono diventati un'azienda, una banca, un imprenditore che sospetta frodi, concorrenza sleale, finti assenteismi, violazioni nella tutela di marchi e brevetti. È uno studio di una delle principali agenzie italiane, Axerta, sui dati della Camera di Commercio di Milano. Insomma, aumentano le agenzie di investigazione e chiedono soprattutto e ottengono soprattutto clienti e lavoro non in campo dei tradimenti banali, che certo sono comunque il core business ancora soprattutto per le aziende piccole, ma poi si occupano di altre cose, clienti soprattutto banche, industrie. Dove sono il maggior numero di agenzie di investigazione in Italia? In Lombardia 512, in Campania 393, nel Lazio 310. Ma dove c'è una maggiore crescita? Sono aumentate del 70% circa nell'ultimo anno in Lazio e poi in Campania del 24% sono aumentate. E dunque i tradimenti reggono come clientele, ma non sono più il punto di crescita per le agenzie di investigazione. Mentre voglio segnalare una storia molto italiana, pagina 29 del Corriere della Sera, la racconta Luigi Offeddu e racconta la storia dello straordinario auditorium di Ravello fatto dall'ultracentenario architetto brasiliano Oscar Niemeyer, un'opera costata 16 milioni, di cui 5 provenienti da Bruxelles, dall'Unione Europea, che ora chiede i conti a Ravello per l'auditorium senza musica. Perché dico una storia tutta italiana? Perché questo auditorium di Ravello, nato per allungare la stagione della città sulla costiera amalfitana per oltre l'estate, dopo l'inaugurazione di gennaio, è stato utilizzato solo 2 volte. Un auditorium straordinario, poi anche architettonicamente è stato chiamato un architetto davvero di fama mondiale, utilizzato 2 volte, e ora l'Unione Europea, che ha destinato 5 milioni, che ora dovrebbe darne altri 3, secondo un articolo malizioso del Guardian, dice: scusate, quest'opera, bella quanto si vuole, ma la utilizzate o no? Visto che sono stati fatti solo 2 concerti dopo l'inaugurazione, dobbiamo dare i soldi? Oppure Luigi Offeddu dice: l'Europa dovrebbe elargire altri 3 milioni, ora tutto è congelato in attesa di chiarimenti, e non si può neanche escludere che venga richiesta all'Italia di restituire almeno una parte delle somme già erogate. Perché non si fa musica? Perché non si fanno iniziative in questo auditorium? Da mesi, ecco la storia italiana, c'è un ricatti, ripicche, litigi, dimissioni di consiglieri, appelli al ministro della cultura Sandro Bondi, petizioni, minacce di denunce, e sta di fatto che insomma l'auditorium rimane abbastanza inutilizzato. E a Bruxelles chiedono i soldi indietro. Sul Corriere della Sera lo trovate a pagina 29. Le parole di Gasparri infiammano il dibattito politico nella settimana in cui ci sono annunciate nuove manifestazioni. Da oggi riparte la riforma universitaria al Senato, mercoledì dovrebbe essere approvata e gli studenti, ma non solo, promettono insomma di farsi sentire nuovamente. Gasparri cosa ha proposto? Sostanzialmente arresti preventivi. Ha evocato il 7 aprile 79, quando furono incarcerati i capi dell'estrema sinistra. E, bisognerebbe fare così. Un nuovo 7 aprile, ovviamente, si è subito scatenato il dibattito tra chi dice c'è la libertà di manifestare, tra chi, come l'Unità, mette in prima pagina Gasparri con il titolo Odio di Ricino. E, le prime pagine dei giornali sono tutte su queste. Intanto il Viminale, il ministro dell'Interno, il Ministero dell'Interno, secondo il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini a pagina 3, c'è preoccupazione, si giudica tutto questo come una provocazione. Tra l'altro oggi Maroni ha convocato una riunione col capo della polizia, il questore di Roma ha confermato la scelta di ripristinare la zona rossa per il controllo dei palazzi e delle istituzioni, e diciamo che la sensazione in questo articolo di Fiorenza Sarzanini appunto è che il ministero voglia bollare come una sorta di provocazione quella di Gasparri, mentre Guido Ruotolo della Stampa è andato a intervistare il PM Calogero, Pietro Calogero, che allora era procuratore a Padova e fece fare tutti questi arresti, oggi è procuratore generale a Venezia, e a pagina 3 della Stampa dice c'era un attacco allo Stato allora, oggi no. Insomma, dice Calogero, non colgo indizi di un progetto di illegalità nelle manifestazioni di oggi, dunque non capisco su quale basi si debba formare una risposta strutturata da parte dello Stato. Vedo una parentela, mettiamola così, tra il 68 e questo movimento, ma invocare oggi un nuovo 7 aprile è una sciocchezza. Quegli arresti furono frutto di un'indagine di anni di lavoro condotti nel pieno rispetto della legalità, ci tengo a precisarlo. Riproporli oggi equivale a dare una risposta emotiva sbagliata. C'è da dire che anche Repubblica va a intervistare il numero 2 del CSM, vale a dire Michele Vietti, che è avvocato, è stato deputato dell'UDC e da qualche mese vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e che in questa intervista di Liana Milella bolla la proposta come senza senso. Quello che è successo è di un'oggettiva gravità, non va assolutamente sottovalutato, inizia così Vietti, ma non va neppure utilizzato per soffiare sul fuoco di un clima sociale che rischia di farsi incandescente e che tutti abbiamo il dovere di contribuire e raffreddare. Poi parla anche Vietti dell'altra iniziativa che in questo caso è stata proposta dal sottosegretario Mantovano, vale a dire il DASPO, quella iniziativa per vietare le manifestazioni sportive e violenti, allargato anche alle manifestazioni di piazza. Beh, un DASPO, dice Vietti, applicato agli studenti mi sembra pure di difficile praticabilità, mentre se proprio vogliamo prendere a prestito le misure contro le violenze negli stati, vedrei meglio l'arresto in flagranza differita. Sta di fatto che insomma è bufera politica su questa proposta di Gasparri, che in qualche modo solo il ministro La Russa difende in un'intervista sempre alla Repubblica, pagina 4, dice La Russa, il pensiero di Gasparri è stato frainteso, voleva dire che prevenire è meglio che curare. Poi dice, da Santoro sono andato sopra le righe, sapete La Russa ha fatto questo sfogo contro lo studente, stava insomma per passare la tesi che sono più colpevoli i poliziotti e il governo di chi commette le violenze. E poi La Russa dice, comunque è assolutamente garantita la libertà di manifestare. Dopo aver subito tanti divieti, io che manifestavo, insomma, un ex manifestante nei tempi dell'MSI, non sarò mai io a dire che bisogna impedire i cortei. Guai a parlare di limitare il diritto alla protesta, sarei il primo a scendere in piazza. Così La Russa. Sta di fatto che gli animi certo sono surriscaldati. Guardate come titola il giornale in prima pagina. Allarme, studenti e Black Bloc sono già armati. Mercoledì in Senato la riforma Gelmini, ultra di tutta Italia pronti a sbarcare a Roma. C'è anche un articolo di Massimo Malpica. Gli studenti preparano un mercoledì di guerra. e anche ora un allarme degli ultra di calcio infiltrati. C'è una lettera, tra l'altro, che il giornale pubblica in prima pagina, la lettera di Francesca, moglie di un poliziotto. Si firma solo così, poi continua a pagina 4, racconta la sua vita d'angoscia, ad aspettare che mio marito torni vivo dai cortei. Non si parla mai del diritto alla vita, all'incolumità di chi rappresenta lo Stato. Con le lacrime agli occhi ho visto le immagini di Santoro, ho ripensato a domenica pomeriggio, quando mio marito mi ha comunicato che c'era la possibilità di un invio anche da parte del loro reparto a Roma per una grossa manifestazione. Non si spiega mai, non si scrive mai che nella vita di questi poliziotti c'è sempre una madre, una moglie, spesso dei figli che piangono in silenzio, soffrono ogni giorno per i pestaggi verbali e fisici cui spesso vengono fatti oggetto. Questa è la foto di la lettera di Francesca, moglie di un poliziotto. Mentre, attenzione, c'è una notizia che pubblica solo il Corriere, pagina 5, molto interessante. Fabrizio Peronacci è andato nel liceo dove studia quel ragazzo diventato famoso, no? Quello 17enne con la giacca beige, passato per 24 ore da poliziotto infiltrato, in realtà era appunto questo minorenne in giro con la vanga. Ebbene, è il liceo Caetani che è diventato un campo di battaglia. Nel weekend sono entrati, o comunque hanno devastato tutto, danni per 200.000 euro, luogo culto per i devastatori. Mi avevano detto che volevano fare lezione di antagonismo. Ecco la lezione finita. Gli do un bel 10 e lode, esclama così il dirigente scolastico Nardo Nardoni, fotografato mentre si aggira tra le macerie con l'aria di uno scampato. Scuola messa a soqquadro. Proprio qui, nel weekend, esplosa la furia dei devastatori. Computer estirpati, vasi antichi in mille pezzi, la cassaforte sventrata, una fotocopiatrice da 10.000 euro divelta. Lo scriva, sono tremendamente incazzato. Noi presidi vediamo lasciati soli, l'autonomia scolastica viene interpretata come anarchia. Nel liceo dove ha studiato, considerato anche un liceo molto caldo, danni per 200.000 euro nel weekend da parte degli studenti, il dirigente scolastico che dice è una vergogna i devastatori e la scuola. Che sia un periodo non bello lo si capisce anche per quello che è successo al vice sindaco di Milano Riccardo Decorato, che è anche deputato. C'è un trafiletto sul Corriere un po' più lunga, sul Quotidiano Nazionale, nelle cronache locali. Ambulante aggredisce Decorato, ha finto di volergli stringere la mano, era in un bar Decorato, si è avvicinato l'ambulante, gli ha detto Decorato e alla risposta affermativa ha fatto finta di stringere la mano e poi l'ha colpito con 4 ceffoni urlandogli mafioso di merda, sei andato a cercare voti nei mercati, poi non hai fatto nulla e poi gli ha buttato in faccia delle multe, queste me le paghi tu. Dopo i colpi, Decorato ha indietreggiato, intontito, intorno a lui gli ambulanti residenti della zona, è arrivata anche la scorta, l'aggressore è stato placato alle spalle, è stato identificato ovviamente, poi ha finto un malore, si è sentito male, all'arrivo dei carabinieri, 7 giorni di prognosi con Decorato che dice urlava come un pazzo, parlava di una multa, poi mi ha gridato che sono un mafioso. È stato tra l'altro Decorato il primo soccorso, è stato il portavoce del candidato sindaco del centro-sinistra, vale a dire Giuliano Pisapia. E anche sul Corriere della Sera un ambulante prende a schiaffi Decorato. Il clima, signori, è questo. Ormai si fanno volare le mani così. Allora, veniamo all'altro tema sui giornali ancora oggi, che è il tema del nostro sondaggio. Vale a dire le polemiche sul disastro dei trasporti bloccati per via della neve. Noi vi chiediamo, è davvero colpa dei viaggiatori imprudenti, come ha detto anche il capo della Protezione Civile, Gabrielli? Questo è il tema del nostro sondaggio e vi invito ancora 349-238-6666 a mandarci messaggi, magari ci volete raccontare la vostra disavventura. Prigionieri sulla 1, indaga l'antitrust, indaga anche l'antitrust, mentre la società Autostrade ha fatto sapere che ci saranno i risarcimenti, ma il numero uno di Autostrade, Castellucci, fa un paio di interviste sia al Quotidiano Nazionale, dice: dateci gli strumenti per fermare in tempo i TIR, i mezzi pesanti, identificati come in Francia, come in Svizzera, quando ci sono le previsioni si fermano i mezzi pesanti. E anche al Giornale l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia dice questo: facciamo come in Francia, se nevica stop ai TIR. Sta di fatto che ovviamente è in scena il solito scaricabarile, non si capisce bene di chi è la colpa, di chi non è la colpa. Il ministro Matteoli, che sarà il nostro ospite alle 8.30 oggi, ha convocato un po' tutti, vuole cercare di capire Ferrovie, Autostrade, ANAS, cercare di capire come fare. Ora invece chi fa mea culpa, almeno questo gli si deve dare atto, è il sindaco di Firenze Renzi, che fa una lunga intervista con Curzio Maltese su Repubblica, pagina 7, e dice: un bel casino, anche se qualcuno ci inzuppa il pane un po' troppo, non vedevano l'ora, ma non voglio fare la vittima e neppure il fesso e non voglio dare la colpa ad altri. Vuole che le dica che ho sbagliato? Dice Renzi: mi sono fidato delle previsioni che davano 5 centimetri di neve, invece ne sono caduti 25, dovevo chiudere le scuole venerdì e non l'ho fatto. Non sapevo che i mezzi del comune di Firenze per sparare la neve sono inadeguati, per non dire ridicoli, sembrano i giocattoli della Playmobil. Detto questo, non è poco e me ne assumo l'intera responsabilità, sono errori miei, non colpe di D'Alema. Subito fa la frecciatina Renzi. Ma anche se fosse stata una giornata di giugno di sole, Firenze sarebbe saltata in aria. Quando si chiude l'autostrada del sole, la Firenze Pisa-Livorno, mandando caravan di camion in città, si bloccano aeroporto, ferrovia, la paralisi è inevitabile. Poi c'è anche una polemica con Matteoli, perché Maltese dice, sta facendo una vaga allusione a Matteoli. Beh, il ministro Matteoli era alla Fortezza d'Abasso per una cena del PDL e ne ha approfittato per dire che a Firenze città non si circolava, mentre l'autostrada era libera. Era esattamente il contrario. Ma quanto vino bevono a ste cene del PDL? Chiede polemicamente Renzi, che dice: comunque, ripeto, alle 20 l'emergenza grave a Firenze era tutta finita, mentre sull'autosole c'era la gente che si preparava a dormire in auto. Mentre chi c'era anche in autostrada, si è scoperto oggi dai giornali, l'ex ministro Scajola. Tanto che nei giorni scorsi si era sparsa la voce della solita classica raccomandazione di un ministro, ora si scopre un ex ministro, che ha chiamato qualcuno e si è fatto venire a prendere in autostrada. C'è l'ex ministro Scajola che è letteralmente imbufalito. Sul secolo XIX racconta la sua odissea: sono rimasto come tutti 14 ore fermo. Ho chiamato certo il prefetto di Firenze perché l'ho avvertito di quello che stava accadendo. Sentendo le notizie per radio mi sono reso conto che non c'era la consapevolezza della situazione. Ci avevano fatto entrare a forza in un budello da cui non era più possibile uscire. Claudio Scajola racconta, l'ex ministro delle attività produttive, intrappolato sulla A1 26 ore per raggiungere Imperia da Roma. Un record mondiale. Io ho detto 14, invece 26 ore. 14 di stop completo, eccole le 14 ore, di stop completo durante la notte e 26 ore di viaggio. È il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che sarà nostro ospite anche lui alle 8.30, che aveva detto: cosa si può dire a Scajola che si fa scortare da uno spazzaneve? Che non lo sapeva, dirà lui probabilmente. Non è lo stesso a cui hanno regalato un appartamento e lui non lo sapeva? Ecco, Scajola è durissimo nella reazione. Magari avessimo visto uno spazzaneve, sono stato in coda esattamente come chiunque altro, ho telefonato al prefetto perché migliaia di persone insieme a me erano imprigionate. Sta di fatto che la situazione di freddo e gelo c'è anche in tutta Europa, è un disastro. Qualcuno dice: attenzione, informatevi bene per viaggiare a Natale perché gli aeroporti sono bloccati in mezza Europa. C'è anche Madonna ferma a Londra, è saltato il concerto di Lady Gaga. Io ve lo dico perché così pensate che non è che sono sempre i soliti italiani che rimangono intrappolati, insomma capita un po' in tutta Europa, e quando c'è blocco non è che si guarda al portafogli o all'importanza delle persone. Caos a Londra, è bastata poca neve e anche lì Madonna è costretta a fermarsi, però fa yoga nella sala VIP. Se volete andare a vedere all'aeroporto di Heathrow Madonna che fa yoga nella sala VIP, eccola lì, la trovate. E avete sentito ancora allora problemi di ghiaccio, andate piano e informatevi. E poi che dire, purtroppo c'è anche un aspetto davvero drammatico sul quale si cominciano a concentrare i giornali, vale a dire questo freddo, questo gelo intenso nelle città italiane sta facendo, come il Corriere dice, la strage dei clochard, 6 vittime in una settimana e senza tetto. Gli ultimi 2 casi sono morti, uno a Varese e uno a Torino, con tra l'altro anche il fondatore dei City Angels, questa associazione che soprattutto a Milano si muove, Mario Furlan, che dice in qualche caso andrebbero ricoverati a forza, anche con la forza, perché loro si rifiutano proprio per questo loro stile di vita di ottenere un ricovero, di magari andare a dormire in un posto coperto. E poi cosa succede? Che quando la temperatura crolla, con temperature polari nelle città, soprattutto nel nord in questi giorni, purtroppo si registrano vittime. Io voglio andare, ma la politica oggi la voglio proprio saltare, cosa c'è da dire se non che Casini fa una timida apertura a Berlusconi, questo almeno si legge dai giornali, l'apertura che arriva, basta litigi, lavoriamo insieme per il paese, siamo pronti a fare la nostra parte rimanendo all'opposizione, dice il leader dell'UDC, con Berlusconi che secondo Repubblica dice vedete adesso Pier Ferdinando comincia a ragionare. Ecco. Cambiamo pagina e veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore con i dati non incoraggianti, certo, per il lavoro. Un 2011 freddo, il mercato resta debole, non porta schiarite per chi cerca un lavoro. A pagina 3 Francesca Barbieri racconta questi posti di lavoro cancellati dalla crisi che i timidi segnali di ripresa del PIL non riescono a ricostruire. Anche nel 2011 per chi cerca lavoro il termometro sarà freddo per il mercato. Studiosi e analisti concordano sulle previsioni per il futuro immediato, la risalita dell'economia è ancora troppo debole, non riesce a rivitalizzare l'occupazione. Si parte dagli ultime rivelazioni del Centro Studi di Confindustria, secondo cui l'occupazione rimarrà pressoché immobile, più 0,1% dopo il forte calo registrato nel 2010, riprenderà a salire solo nel 2012 con un più 0,9%. Dunque si profila un anno di 2011 sul fronte del lavoro ancora difficile, in attesa che il 2012 sia un anno invece di trend più positivo sul fronte occupazione. Voglio segnalare, sempre sul Sole 24 Ore, l'ho trovata in prima pagina e poi a pagina 35, che cosa entra in vigore, e proprio dal giorno di Natale, un nuovo decreto legge sul smaltimento dei rifiuti. Fate attenzione, cari italiani, a Natale un regalo all'ambiente. Ci sono le nuove regole per disfarsi della grande quantità di avanzi e pacchi nel periodo festivo. Scatta proprio il giorno di Natale ed è una maxi sanzione per i privati che abbandonano rifiuti per strada o li buttano in mare o nei fiumi. Una sanzione che va da 300 a 3.000 euro e raddoppia se i rifiuti sono pericolosi. Dunque può arrivare fino a 6.000 euro. Prima al massimo era 620 euro. Attenzione. Paola Ficco racconta tutto di quelle che sono le nuove regole. C'è anche un'infografica molto interessante su come smaltire carta, cartone, gli elettrodomestici, le frazioni organiche, pile, giocattoli, farmaci, le lampadine. Trovate tutto a pagina 35 del Sole 24 Ore. Molto utile, perché ci sono nuove regole in arrivo proprio attorno al Natale. Per quel che riguarda invece la cronaca, io voglio segnalare una storia che trovate su tutti i giornali, la leggo da Repubblica, Giuseppe Baldessarro, arrestato il capitano amico dei boss. A Reggio Calabria da anni lo riempivano di regali, scarpe, abiti di lusso, gli prestavano la Ferrari, il Porsche Carrera, gli pagavano viaggi, vacanze e lui in cambio cosa faceva? Forniva informazioni riservate. E purtroppo l'ennesima storia, dico io, di rapporti strani tra lo Stato e la mafia. In questo caso c'è finito il capitano Saverio Spadaro Tracuzzi, che era una talpa del clan all'interno dei carabinieri, uno di casa, un amico del boss Luciano Antonino Lo Giudice, e loro lo sapevano come sdebitarsi con lui. Quando il maresciallo, così veniva chiamato, aveva bisogno di qualcosa, la risposta era immediata. «Uè, Luciano, ti volevo dire, allora è possibile quella cosa per domani?» E il boss: «Quando vuoi, domani mattina, la macchina è già pronta e lavata, e quando vuoi passi e te la prendi». È il racconto appunto di come sia stato arrestato questo capitano dei carabinieri perché era molto legato ai clan, secondo l'accusa, e il rapporto si era dimostrato solido e per anni avvertiva ovviamente i capoclan di imminenti arresti, imminenti retate, e casualmente cosa succedeva? Che i massimi esponenti dell'Ndrangheta riuscivano a fuggire e riuscivano a scampare ai blitz da parte delle forze dell'ordine. E vabbè, allora voglio chiudere citando la Gazzetta dello Sport, perché l'Inter è tornata campione del Congo e del mondo. Peter ride. Campione del mondo, non del Congo, e la Gazzetta dello Sport. Peter è il nostro tecnico milanista come me, ma sì, mi è venuta così, dai. Benitez è fuori, attenzione, perché è una svolta clamorosa annunciata dalla Gazzetta dello Sport, e cioè l'Inter, che è campione del mondo, ha deciso praticamente di far fuori l'allenatore. Moratti ha deciso, Benitez è fuori, Spalletti è in pole position, anche se l'alternativa su cui si pensa potrebbe essere quella di Leonardo. Non farlo, Leonardo. Inter, avanti un altro, anche all'interno della Gazzetta. Insomma, a Moratti non è piaciuto davvero lo sfogo definito inopportuno con grande eleganza, ma voleva dire forse qualcosa di più, di Benitez, che dopo aver vinto la Coppa ha detto, insomma, qualcosa di troppo. E infatti Gene Gnocchi, il rompipallone, in prima pagina della Gazzetta: Moratti rassicura Benitez, i rinforzi arriveranno. Il primo è Spalletti. Ci fermiamo per il GR.